Italia in controluce. Buon pomeriggio da Daniele Biacchesi, questa è la seconda edizione di Italia in controluce, due edizioni che raccontano l'Italia. Mancano pochi giorni al primo turno delle elezioni amministrative, si vota alle comunali, alle provinciali. Le città più importanti interessate al voto sono Milano, Napoli, Torino, Cagliari e Bologna. Dopo Napoli, con il reportage di Raffaella Calanda, proseguiamo il nostro viaggio sullo scontro politico a Bologna, raccontato per noi da Maria Luisa Pezzali. Dopo le dimissioni di Flavio Del Bono per il Cinzia Gate, lo scandalo per i viaggi con l'ex fidanzata e segretaria a spese pubbliche, cui è seguito il commissariamento del comune, Bologna riparte dalla questione morale, il tema che sta catalizzando la campagna elettorale. Sia per il centrosinistra, in campo con il candidato unico Virginio Merola, ex assessore all'urbanistica nella giunta Cofferati, presidente del consiglio provinciale fino alla vittoria nelle primarie, sia per il centrodestra che per la prima volta a Bologna sceglie un candidato sindaco leghista, Manes Bernardini, bossiano e bolognese doc. Non fanno eccezione il candidato del terzo polo Stefano Aldovrandi, il civico Daniele Corticelli e il grillino Massimo Bugani. Non poteva che essere così, ci dice Guido Fanti, padre nobile della sinistra bolognese, sindaco dal 1966 al 1970, primo presidente della regione Emilia-Romagna. Non poteva non essere che così. Il decadimento della conduzione amministrativa di una realtà quale quella bolognese ed emiliana è stata portato anche che sul piano personale sono avanzate delle questioni derivanti dal modo di essere delle persone. Quello di Del Bono è stato un esempio eclatante di quella caduta della capacità di mantenere eticamente elevato il quadro di direzione politica amministrativa. È una delle questioni che hanno intorbidato le acque qui a Bologna e che hanno trasformato la campagna elettorale da un raffronto su idee politiche, su progetti politici, come eravamo abituati a fare nel passato. Poi a un certo punto questa impostazione è venuta a cadere grazie a quello che è successo sul piano nazionale, perché contrariamente a quello che si cerca di far credere, la situazione di Bologna, l'andamento della buona amministrazione di Bologna non era il frutto solamente di una bontà interna alla città, una realtà cittadina, ma era una realtà cittadina che diventava così in funzione di una situazione nazionale particolare. Il discorso nostro è nato, si è fondato sulla necessità della alleanza per la buona amministrazione delle forze politiche democratiche e della partecipazione delle organizzazioni economiche, sociali, sindacali alla vita cittadina e alla realizzazione delle questioni. Tutto questo è andato avanti fino a un certo punto, poi l'assassinio di Moro e aver impedito in questo modo la realizzazione di quello che noi chiamavamo il compromesso storico ha inciso sulla situazione politica complessiva italiana e anche su Bologna. L'impostazione che era uscita dalla guerra, dalla condotta e con i sindaci che si sono seguiti nel corso di tutto il secolo, è venuta a cadere e a far prevalere i fatti personali, il personalismo, la concezione personalistica del potere, tutto quello che ha indebolito anche sul piano nazionale la situazione italiana. In questo scenario la Lega, forte del consenso guadagnato in altre roccaforti del centro-sinistra, gioca la carta del cambiamento. Angelo Alessandri, segretario regionale del Carroccio. Credo che tutti si siano interrogati in questo anno di commissariamento, una città che ha sempre avuto delle grandi eccellenze, che ce le ha ancora, una grande volontà di riuscire ad eccellere, di stare insieme come comunità, ma che oggi vede una città in qualche modo degradata e che non ha più uno sbocco. Noi stiamo cercando di costruire una sorta di fiducia basandoci sull'orgoglio bolognese. Devo dire che la risposta sta arrivando in maniera molto forte e la gente non si dimentichi cosa è successo, perché credo che una classe politica vada giudicata anche da quello che è avvenuto. Se avessimo poca memoria nel voto del 15-16 maggio su quello che è avvenuto con Del Bono, che l'hanno scelto loro, addirittura Cofferati nei 5 anni precedenti con 1000 critiche, il Merola che hanno messo candidato sindaco è un uomo che era assessore quella urbanistica della stessa giunta Cofferati, insomma, io direi che ce ne sono abbastanza per magari pensare di cambiare. Bisogna però dare uno scatto e credo che con la classe politica di prima oggi non sia più possibile poterlo dare. Ci presentiamo con le carte in regola alla replica di Stefano Bonaccini, segretario regionale PD. Non c'è nessuna questione morale né a Bologna né in Emilia-Romagna, tant'è che vorrei ricordare in un paese in cui chi lo governa cambia le leggi per non presentarsi nei processi invece che difendersi nei processi. Noi abbiamo avuto un caso, ahimè, purtroppo molto problematico lo scorso anno, del Bono si dimise prima ancora di un eventuale rinvio a giudizio o avviso di garanzia. E immediatamente, nel momento in cui si dimise, noi dicemmo che la città avrebbe avuto bisogno delle elezioni, proprio perché erano i bolognesi che dovevano scegliersi chi li avrebbe governati. In qualunque delle migliori famiglie può succedere che qualcuno sbagli. Del Bono ha sbagliato, ma l'importante è che nel momento in cui uno sbaglia sia consapevole che il dovere è quello di farsi da parte, cosa peraltro che in questo paese e nella politica italiana accade ben poco. Abbiamo reagito con grande dignità e umiltà e dall'altra parte abbiamo scelto il candidato a sindaco Virginio Merola con le primarie, cioè portando circa 30.000 bolognesi a scegliere chi doveva essere il loro candidato, per cui per noi non c'è nessuna questione morale, non abbiamo mai pensato che siamo superiori moralmente al centrodestra o alla destra italiana o bolognese, sicuramente secondo me la differenza la fanno nei comportamenti conseguenti quando qualcuno magari sbaglia, non dovrebbe mai succedere, se succede l'importante è comportarsi di conseguenza. E torniamo sulla giornata della memoria delle vittime del terrorismo, celebrata ieri dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, con un'iniziativa molto importante e utile che nella celebrazione di ieri, nello scontro politico sulla giustizia, è passata un po' inosservata. All'indirizzo internet www.memoria.san.beniculturali.it trovate la rete degli archivi della memoria. Romolo Napolitano ha intervistato la direttrice Ilaria Moroni. Che cos'è la rete degli archivi per non dimenticare? La rete degli archivi per non dimenticare è un insieme di archivi, associazioni, centri di documentazione che si occupano di storia dell'Italia repubblicana dal 47 ai giorni nostri, in particolare in relazione ai temi sul terrorismo, le stragi, la violenza politica e la criminalità organizzata. Qual è il vostro obiettivo? L'obiettivo è quello di rendere disponibili e consultabili le fonti documentali conservate in questi archivi su queste tematiche e soprattutto di dare agli utenti le informazioni circa queste fonti documentali che sono sparse sul territorio nazionale, quindi l'obiettivo di metterle insieme e renderle visibili ovviamente è finalizzato a agevolare la ricerca storica. Quindi si tratta di un lavoro effettivamente immane? È un lavoro enorme, adesso il 9 maggio al Quirinale sarà presentato questo portale realizzato in collaborazione con la Direzione Generale agli Archivi che è iniziato partendo dalla pubblicazione del Quirinale realizzata nel 2008 e quindi comprendendo solo alcuni fatti di violenza politica. Il nostro obiettivo è quello di approfondire la ricerca storica e scrivere anche, ormai è giunto il momento di scriverla questa storia, perché le fonti comunque sono disponibili su anche altri fatti, compresi fatti di mafia e criminalità organizzata. Quante sono in Italia le stragi e le vittime di terrorismo dimenticate? Le vittime di terrorismo accertate sono 379, quindi diciamo e a queste sono connesse stragi, omicidi politici e varie. Su tutto questo periodo di storia del nostro paese molto importante ancora non è stata fatta piena luce. Vedi la strage di Piazza della Loggia, il cui processo è ancora, adesso è stato presentato appello e quindi ancora non si è concluso. La strage del 1974, sono passati più di 40 anni e quindi ciò fa anche capire come in realtà non c'è stata la giustizia, ma non c'è neanche una verità. La rete da quante associazioni è composta? Sono oltre 50 associazioni, un numero preciso non c'è perché le adesioni stanno aumentando a mano che si conosce il progetto, quindi siamo all'incirca sulle 57 associazioni comprese archivi di Stato e sovrintendenze, perché ovviamente anche negli archivi di Stato sono conservate fonti istituzionali. Il portale sarà presentato dal Presidente della Repubblica, è un riconoscimento importante. Sì, è un riconoscimento importante e anche a garanzia della volontà istituzionale. Il Quirinale ha sempre vigilato su questo progetto e sin dall'inizio il Centro Documentazione Archivio Flaminia ha fatto nascere questo progetto nel 2005 con pochissime forze e pochissime risorse, e c'è da dire che la volontà degli aderenti ha fatto sì che la rete si ampliasse nel tempo e che trovasse anche l'adesione delle istituzioni, primo tra tutti appunto il Quirinale, la Direzione Generale agli Archivi del Ministero Beni Culturali, che ha voluto realizzare questo importante portale che renderà proprio più facile la ricerca archivistica delle fonti esistenti. Italia in Controluce era la seconda edizione, cercateci tutti i giorni su Facebook, Twitter, comunicate con noi via mail controluceradio24.it. Domani torniamo puntuali alle 6.30 su Radio 24.